Io ho sempre cercato, dove sono stato sacerdote nelle diverse parrocchie e spero di riuscire a farlo anche qui con voi, di avere confidenza sia umana, che è bella, ma soprattutto spirituale, che è ancora più bella, credetemi. E poiché ho sempre cercato di coltivare questo, ho fatto anche delle belle esperienze, come quella che capitò una volta in una di queste parrocchie, in cui mi vide recapitare una lettera scritta da una mia parrocchiana che aveva lasciato l'ospedale da pochi giorni dopo un periodo piuttosto lungo e faticoso, una lettera bellissima, in cui mi diceva: caro Don Ambrogio, io benedico coloro che negli ospedali hanno messo i crocifissi nelle camere. Lo faccia sapere per favore al cappellano e al general manager. E così poi ho fatto. E mi diceva: e li hanno posizionati non sopra il letto, ma sulla parete di fronte. Perché sa, finché arrivano i tuoi parenti, gli amici a trovarti, non pensi alla tua fatica, al tuo dolore, ma quando vanno a casa tu resti lì da sola. Quanti colloqui ho fatto con quel crocifisso là davanti. Cari amici, o noi riusciamo ad avere questo rapporto con Gesù, se no la nostra è una religione, ma non è una fede cristiana. Per questo io credo che, al di là delle discussioni del crocifisso nei luoghi pubblici, io credo che nei luoghi di sofferenza non deve mancare il crocifisso. E anche chi non è di credenza cristiana, se conosce un po' la sua storia, non può che rivolgersi a lui. E guardate che questo avviene, Se io sento missionari che sono in alcune zone del mondo, mi dicono, per esempio, con la Madonna, con il profeta Elia, ci sono fior di musulmani che li venerano. In Italia chi non lo vuole non è di un'altra religione, più delle volte, è chi è ideologicamente contro Gesù Cristo. A parte questo inciso, ci sta bene un crocifisso nei luoghi di sofferenza, purché uno sia capace di rapportarsi col crocifisso. In genere il popolo questo lo fa. Tant'è vero che c'è anche un linguaggio popolare che si esprime con queste parole. Mi diceva uno, sono andato ancora in un ospedale, ho visto un mio coscritto, diceva, era lì nel letto pieno di cateteri, di tubicini, di flebo. Allora un por Christ. Lo dico questa parola perché non manca di rispetto a Gesù Cristo, ma perché identifica la persona che soffre con Gesù Cristo che soffre, purché noi siamo capaci di contemplare il crocifisso. Amici, io vi auguro che impariate a pregare, che non è solo il chiedere. Mi fa sorridere quando chiedo a qualcuno: ma tu preghi? Ah, sì sì, soprattutto quando ho bisogno. Vabbè. Quando tu imparerai a guardare, si prega bene con gli occhi, amici. Per questo l'arte religiosa ha un posto così grande nella nostra cultura. Però devi guardare, devi riflettere, e devi farlo con gli occhi e devi farlo con la parola di Dio. Io vorrei che questa settimana, vi auguro, che questa settimana, la settimana santa, possiate venire spesso in chiesa. sia durante le celebrazioni comunitarie, sia anche da soli. Stare, fermarsi. Ci saranno a disposizione di tutti dei libretti della Settimana Santa in cui tu potrai, se vorrai, rispecchiarti. Oggi lo faccio io per voi e con voi, invitandovi a prendere il foglietto che senz'altro tutti prendete quando entrate in chiesa, no? Perché sennò è come andare a scuola senza il libro di testo. Cioè, non c'ho gli occhiali giusti. Portali. Portali, amico. Ascolteremo nella prima lettura dal profeta Isaia un brano straordinario. Pensate che Isaia è vissuto circa 700 anni prima di Cristo, ma essendo profeta, lui ha descritto, senza vederlo, il personaggio del Redentore, il personaggio di Cristo. Vi invito dunque a seguirmi con benevolenza in questa prima lettura. Lettura del profeta Isaia, il capitolo 52. Così dice il Signore Dio: ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, sarà esaltato e parte con i toni belli, con i toni gloriosi. Ma poche righe dopo ti dice: ma come mai avrà questo destino? E comincia la descrizione di questo servo di Dio martoriato in tutti i modi. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio, cioè la potenza del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a Lui, come una radice in terra arida. Chi di noi conosce un po' la campagna, gli pare di vedere magari certe zone aride, un ceppo tutto tagliato e un, che bello il dialetto, perdonatemi, è un recash, cioè un virgulto che spunta fuori. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non ha splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, non vuoi vederlo, ti fa senso, ti fa ribrezzo. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure, egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Credo che questo dica tutto, anche se il testo continua. Cari amici, o noi siamo capaci di guardare Gesù sofferente, Gesù crocifisso, se non mi dispiace, della nostra fede cristiana noi non abbiamo colto se non l'involucro esteriore. E solo se tu sei capace di guardare in faccia Gesù Cristo, poi nei momenti, vedi la lettera di quella in ospedale, nei momenti in cui la vita ti prova, tu trovi una speranza. Perché, amici, il dolore c'è sempre per tutti, a prescindere da Gesù Cristo. Qualcuno ogni tanto, come se io dovessi essere l'avvocato difensore di Gesù, mi dice: e allora come mai? Come metti con tutta questa sofferenza? Perché Gesù ha patito 3 ore, ma io su questa sedia a rotelle sono su da anni, ma io... Dico: amico, io non devo difendere nessuno, ti faccio solo una domanda. Io di fronte alla sofferenza alzo gli occhi, guardo Gesù, lo prego e lui anche mi aiuta. Magari non mi passa il mio dolore, però mi rispecchio in lui. Tu, se non credi in lui, a che cosa ti affidi? Perché la sofferenza comunque c'è, per tutti. Capite, amici? La vita è dura per tutti. Se almeno tu sai alzare lo sguardo al crocifisso, se almeno tu sai dialogare con lui, se almeno tu sei capace di conoscere queste pagine straordinarie e fermarti su, ma ti devi fermar su tu, perché io non posso farti la pappa bella fatta e addirittura imboccarti. Ecco, io vi chiedo, se vorrete, questa settimana provate a vivere questa esperienza, venite anche quando la chiesa è vuota, è sempre aperta, io non la chiudo neanche il tempo del mezzogiorno, tanto non ha grandi opere d'arte da rubare. Venite a lungo, venite più volte in questa chiesa, prendete in mano la parola di Dio e confrontatevi con la vostra vita. Beato chi è capace nelle gioie e nelle fatiche della sua vita di alzare lo sguardo al crocifisso. E gli altri, io non so rispondere. Non so rispondere. Mi arriva un uomo, ero prete da 2 anni, e mi dice: Don, sono 17 anni che io non mi confesso. Mi confesserò a una condizione da te. Caspita, quando uno comincia così, tu ti metti... Perché esiste il dolore innocente? Gli ho detto: guarda, ripassa fra 17 anni, perché io non so risponderti. Eh no, mi dice. E tu la mandi giù così senza darti una risposta? Io la risposta ce l'ho, ma nella fede. Io guardo in faccia il crocifisso, io prendo in mano la parola di Dio e mi confronto. A me non basta. E se n'è andato senza confessarsi. E io mica lo rincorso. Perché se tu non fai questa esperienza, questa è la fede, amici. Il guardare in faccia Gesù Cristo e portare le tue problematiche esistenziali alla sua presenza. Se no, la nostra non è una fede. Diventa una religione. Ma c'era un cardinale intelligente, Cardinal Giacomo Biffi, che fu cardinale a Bologna, che disse, scuotendo il suo uditorio: guardate che il cristianesimo non è una religione, è una persona.